Flash Bit di Giulia Crivelli. Jeremy Corbyn's EU flip-flop. L'Economist, il settimanale britannico, titolava così la sua prima analisi del nuovo leader del Labour Party, eletto pochi giorni fa alla guida del suo partito con il 59,9% dei voti. Interessante l'uso dell'espressione flip-flop, che in questo caso vuol dire capriola, il riferimento all'atteggiamento di Corbyn sul referendum che si dovrebbe tenere nel 2017 nel Regno Unito sulla permanenza del paese nell'Unione Europea. A 48 ore dall'elezione, il leader laburista si è detto favorevole alla Brexit, cioè all'uscita, exit, della Gran Bretagna, Britain, dall'Unione Europea. Brexit è un neologismo creato quasi contemporaneamente a Grexit per indicare l'uscita della Grecia, Greece, dall'Unione. Ma torniamo al flip-flop di Corbyn. L'Economist sottolinea che le prime dichiarazioni di Hilary Benn, ministro degli esteri ombra del governo del Labour, Shadow Foreign Secretary, considerata molto vicina a Corbyn, vanno in direzione opposta, indicando una fiera opposizione alla Brexit. Capriola però non è l'unica traduzione di flip-flop, che significa in realtà anche infradito, le ciabatte di gomma tornate prepotentemente di moda da almeno 2 anni, anche grazie all'ingresso in Europa del più importante produttore brasiliano, Havaianas. Volendo esaminare meglio l'espressione, vediamo i due verbi da cui è composta, e anche questo è abbastanza comune in inglese, basti pensare a hip-hop, inteso come genere musicale. Il primo verbo, regolare, è to flip, che significa capovolgere, si può usare sia in senso pratico, to flip an omelette, pancake, sia figurato. Se aggiungiamo la proposizione out, to flip out, diventa arrabbiarsi, perdere le staffe. Il secondo verbo di flip-flop è to flop, anch'esso regolare. Significa invece cadere o muoversi verso il basso e in senso figurato fallire. Tanto che anche in italiano per flop intendiamo un fallimento, non di un'azienda o società, ma per esempio di un programma televisivo. In inglese si può dire ad esempio the project is bound to flop, il progetto è destinato a fallire, oppure he tried to find it but flopped, ha tentato di trovarlo ma ha fatto fiasco, non ci è riuscito. Quindi le nostre flip-flop, le infradito, vengono da questi due verbi, e quindi l'idea che appunto si vada verso l'alto, si vada verso il basso. Ma c'è anche una parte onomatopeica che agli inglesi piace sempre molto, quel flip-flop riguarda anche il rumore che facciamo quando indossiamo le infradito.